Siamo particolarmente contenti questa sera di avere con noi Maria Grazia Serafin e Gian Gaspare Basile, che avevamo già conosciuto e incontrato per tanti altri motivi e in tante altre occasioni, non ultimo il raduno degli alpini del 2012, dopodiché è nata così un'amicizia, un contatto. Nel 2013 la signora Serafin ha partecipato al premio Claudio Augusta che organizziamo ogni anno per così riuscire ad entrare in possesso e catalogare e mettere a disposizione del pubblico le tesi di laurea. In questi ultimi mesi è nata anche l'idea di non lasciar correre, di non perdere i contatti con le persone che si sono impegnate con una ricerca che riguarda l'Alto Adige in uno dei suoi molteplici aspetti, ed è nata l'idea di presentare periodicamente una di queste tesi al pubblico, e la signora Serafin, la dottoressa Serafin, ha accettato il nostro invito, come precedentemente hanno fatto altri premiati in gennaio. Diciamo, la cadenza è quasi mensile. Abbiamo avuto in gennaio l'occasione di conoscere la tesi che riguardava la letteratura di confine, poi abbiamo avuto una tesi di storia medievale, la presentazione appunto dei conti di Mach, poi abbiamo avuto una presentazione di una tesi di laurea in storia dell'arte relativa delle opere pittoriche a Bressanone, ed infine siamo qui oggi con un titolo molto accattivante, Walter von der Vogelweide, cantore nel Rosengarten. Ecco, il mio compito è quello di introdurre, di dare una piccola illustrazione di quelle che sono le attività di questa biblioteca che esiste da 15 anni in questo appartamento e che continuerà la propria attività nell'attesa di una sistemazione definitiva nel polo bibliotecario. Organizziamo queste iniziative per creare delle occasioni di incontro tra il pubblico e le attività di questa biblioteca, i libri che vengono catalogati, e comunque per fornire sempre delle nuove occasioni e stimoli di crearsi un proprio percorso. Anche per questo viene messo sulla sedia periodicamente un modulo per iscriversi. L'iscrizione è gratuita, ma una volta iscritti a questa biblioteca verrete continuamente così messi al corrente delle nostre attività. Sono molteplici. Il mercoledì e il venerdì organizziamo dei corsi gratuiti di alfabetizzazione, cioè come si usa lo smartphone, l'iPad, l'iPod e tutti gli sistemi per rimanere connessi con la biblioteca, perché oggi la biblioteca non è più solo un posto che accoglie, ma è anche un posto che entra in casa e vi rimane collegato con voi a qualunque ora del giorno e della notte. Quindi voi potete consultare il nostro catalogo, ascoltare le conferenze di anni fa che magari avete perso, non avete avuto la possibilità di ascoltare, di essere presenti, potete riascoltarle. Certo, avete magari bisogno di alcune indicazioni e comunque di una password di accesso. Ripeto, è tutto gratuito, l'unica cosa che serve è iscriversi, ecco, consegnarci un modulo di iscrizione che lasciamo per questo motivo sulla sedia ad ogni occasione che si presenta. Quest'estate, lo anticipo, ecco, nel corso di queste iniziative lo ripeterò più volte, quest'estate pensavamo, visto che si sospendono le attività di presentazione dei libri, di proseguire con la felice così intuizione di anni fa di organizzare dei matinée, probabilmente incentrandoci proprio sempre su come si usa il sito web della biblioteca. Quindi, come vedo le novità, quali libri ci sono, dove li trovo, se li trovo qui o li trovo da un'altra parte, se posso richiederli, se posso prenotarli, e sono tutte operazioni sempre gratuite che si possono fare anche da casa, in macchina e ovunque voi siate con un telefonino. Fa un po' strano, ma in realtà la nostra società si muove in questo senso e le biblioteche hanno l'obbligo morale di essere sempre in prima fila, aggiornate su quelli che sono i nuovi meccanismi per diffondere la conoscenza. Io vi ringrazio e vi ringrazio anche se vi iscriverete alla biblioteca, perché è un modo di voler bene a un'istituzione e ai servizi che noi offriamo gratuitamente. Grazie. Spero che la mia voce arrivi, ma non ho molte speranze. E comunque, se devo parlare più forte ditemelo, che allora mi sforzo. Prima di tutto un ringraziamento alla biblioteca, alla sua direttrice. Quando racconto a Milano come funziona la biblioteca, come funziona questa biblioteca, spalancano le braccia sconsolati dicendo sì, ma lì siete un altro mondo. In effetti siamo lo stesso mondo. La crisi non è delle istituzioni, la crisi è delle persone. Per cui non è vero che non si può funzionare bene anche altrove. Bisogna essere preparati, saper fare il suo proprio lavoro, avere la disponibilità, e questo purtroppo accade molto, abbastanza raramente. Sotto questo aspetto Milano lascia molto a desiderare. Va bene, dopodiché io sono un po' in imbarazzo perché avendo insegnato per quasi 20 anni faccio uno sforzo a non fare il prof qui, però anche perché l'argomento è abbastanza ostico, nel senso che sto parlando di una persona, un personaggio storico che è avvolto in parte nel mistero, quindi siamo sempre nel campo delle probabilità, forse ci avviciniamo lentamente alla verità, però ci vorrà forse tempo. Ecco, ci vorrà forse tempo, per cui quello che diciamo prendiamolo con il beneficio del benevolente sospetto. Ecco questo. Allora, come è cominciato? Intorno alla seconda metà del XII secolo nasce in tutta l'Europa delle corti feudali un nuovo movimento culturale. È il canto dell'amore cortese, che non vuol dire l'amore gentile, è anche gentile, ma cortese sta per corte, perché era il canto delle corti imperiali, che nel mondo della lingua tedesca, in special modo nella regione austro-bavarese, caratterizzerà l'epoca fino ai primi decenni del XIV secolo. È il tempo del Minnesang, cioè del canto d'amore, ispirato agli ideali della cavalleria, un tempo che Ladislao Mitner, sul quale ho studiato una vita fa, definirà una fiaba affascinante divenuta nell'Europa centro-occidentale un aristocratico gioco di corte, perché era un aristocratico gioco di corte. Chi sono i Minnesinger? Sono soprattutto i nobili, ma accanto ai nobili nasce una nuova classe sociale, ed è quella dei ministeriales, cioè quelli appartenenti alla bassa nobiltà, che però aspiravano a diventare cavalieri in virtù della nobiltà dei loro versi, della partecipazione alle crociate. Erano i cosiddetti cavalieri di spada. A questa categoria appartenne certamente anche Walter von den Vogelweiden. Le fonti della produzione del Minnesang sono state molteplici. Sono i canti e i componimenti poetici dei trovatori e dei trovieri, cioè dei cantori del sud e del nord della Francia, che si sportavano di corte in corte, anche in territori di lingua tedesca, e poi l'ispirazione erano anche dei canti della tradizione latina, i canti popolari e religiosi, i canti a sfondo moroso, le leggende come la Tavola Rotonda, e non ultimo i canti dei Carmina Burana. Il profondo mutamento della sensibilità e di cultura della vita di corte ha favorito questo fenomeno sociale, prima ancora che letterario. Si andava formando una nuova concezione della donna. Come vedete non cambia proprio niente, ricorsi, Giambattista Vico aveva ragione, ricorsi e ricorsi. Della donna quindi ispiratrice di gentilezza d'animo ed eleganza dell'occhio, una donna modello di perfezione astratta e irraggiungibile, avvolto in un alone quasi mistico alla quale ispirarsi e con la quale tessere finzioni d'amore. Nelle corti del Sacro Romano Impero si assiste dunque ad un dilagare di questo fenomeno e una fioritura della poesia dei trovatori che caratterizzerà un'epoca d'oro. Uno dei primi Minnesänger che influenza la corte imperiale è Guidore di Provenza, giunto in Germania al seguito di Beatrice di Borgogna, che nel 1156 è andata in sposa a Federico I Barbarossa. si spostavano queste future principesse con tutta la loro corte, i trovatori compresi, ma anche l'imperatore quando si muoveva si portava dietro un bel codazzo di cantori, perché non c'era la televisione e in qualche modo dovevano anche divertirsi, no? Oltre che a fare i tornei e ammazzarsi con le lance. Lì gli è cresciuto i rapporti della corte imperiale con l'area francese, hanno favorito l'ingresso nei paesi dell'Arcopino, soprattutto in Austria e in Germania, ma anche in Svizzera, l'ingresso di questi trovatori che componevano le loro poesie su musiche medievali e testi in lingua tedesca. Quindi era già un inserimento della cultura tedesca che avveniva in queste produzioni poetiche dei trovatori dei Minnesinger. La vicinanza territoriale, i matrimoni e i commerci assecondavano poi i rapporti e consentivano gli spostamenti di cavalieri e di giuliari che si muovevano in un territorio dove non c'era restrizione, non c'erano le dogane, non c'era niente, quindi per andare da un paese all'altro, e spesso si andava da un paese all'altro, non so, per esempio dalla Francia all'Inghilterra, perché Francia e l'Inghilterra fossero in guerra. È il periodo d'oro della stagione del Minnesang questo, che però a un certo punto finisce abbastanza bruscamente, finisce intorno agli anni 20 del XIV secolo, del 1300, quando muore Heinrich von Meissen, detto Frau Englob. Pensate, è il primo che ha usato il termine Frau invece che VIP per le donne, e allora l'hanno chiamato Frau Englob per questo, perché si prendevano un po' in giro fra di loro. Ecco, inizierà quindi dopo questa morte un declino del Minnesang, perché non diventa più un gioco di corte, ma i maestri cantori sono estranei alla vita di corte, sono molto più vicini alla borghesia e quindi manca quell'afflato che prima c'era, perché c'era forse anche più cultura, spesso erano girovaghi che non avevano fatto le scuole, oppure erano girovaghi che provenivano dalle scuole che non erano più quelle scuole lì, anche perché questi personaggi non c'erano più, non c'era Eschenbach, non c'era Vogelweide, non c'erano tantissimi altri. La parola Minni, quindi Minne, perderà il suo significato originario per raccontare amori più terreni. Questo periodo d'oro però ha influenzato gli anni successivi anche in Italia. Il dolce stil novo non è altro, possiamo pensare, che sull'onda di questi Minnesang sia originato anche da questo, perché anche in Italia c'era questo movimento che tendeva a rivalutare la figura della donna. Lo vediamo anche nella pittura, ci sono delle figure del 1100-1200 che sono splendide, con dei vestiti magnifici. Quindi l'ultimo Minnesinger che possiamo prendere in considerazione, e non occorre neanche andare tanto lontano per cercarlo, perché è Oswald von Funkenstein, che continuerà questa stagione, che stagione che ha influenzato anche non solo nella poesia Dante e Goethe, ma anche Wagner, per esempio, ricorso sul Tannhäuser. In un tempo a noi vicino, devo dire che c'è stato Angelo Branduardi, un cantautore, che si è ispirato a Unter den Linden, forse la poesia e il canto più celebre di Vogelweide, in toni che conservano ancora tutta la loro forza e il loro fascino. Ecco, quindi questa presentazione era d'obbligo, perché così si viene inserito il personaggio del quale adesso parlerà Maria Grazia. Buonasera, dovete darmi il benvenuto, vi porto buone nuove. Ecco. Questi sono due versi di Walter von der Vogelweide, che si rivolge così agli uomini e alle donne tedesche presumibilmente al ritorno da un suo soggiorno alla corte di Vienna. E mi sembra simpatico, ecco, inserirli in questa presentazione di tesi, proprio perché la tesi porta delle novità piccole, modeste se volete, sul luogo di nascita di Walter e sulla sua vita. Però ecco, sono piccole novità, ma inediti, ma trovo curiosi ed anche interessanti, poi vedremo. Allora, su Walter von der Vogelweide è stato scritto tantissimo, centinaia di libri, le biografie sono innumerevoli, però dal 1850 in avanti è stato dato come per assodato che la sua patria sia Lyon, che è un paese dell'inizio della Val Gardena, e proprio lui sarebbe nato nella frazione di Ried al Vogelweider Hof. La gente del luogo, ma anche da documenti catastali, risulta esserci stato in questa località una grande Edelsitz, che poi nel 1450 circa risultava già divisa tra due fratelli che probabilmente hanno litigato per loro per motivi non si sa quali, ma comunque hanno litigato, hanno diviso questa Edelsitz, e attualmente esiste il Vogelweiderhof, Inner Vogelweiderhof, e l'Auster Vogelweiderhof, poco distante. Perché proprio si dice che Walter von der Vogelweide sia nato al Vogelweiderhof? Adesso vi porto le prove che sono state recuperate e che esistono già. Ecco, la prova più importante io l'ho trovata negli scritti del parroco Johannes Haller, che fu parroco per 8 anni a Lyon, o Lyon in tedesco, che racconta appunto, lui era un grande studioso, era uno storico. Il suo sacrestano ci dice che la sua libreria, la sua scrivania era sempre ricolma di libri, come a Sabiona, perché prima era a Sabiona. Durante gli anni del suo mandato a Lyon si interessò tantissimo alla storia di Walter von der Vogelweide, però alcuni elementi poi portarono a far sì che questa ricerca che lui fece venisse anche pubblicata. Venne pubblicato le sue ricerche vengono pubblicate sul Deutsche Tageszeitung, mi sembra, vero? Sì. Nel 1867 o 69. E riportava tutte le prove che secondo lui e secondo appunto gli storici del tempo davano come evidente la nascita di Walter al Vogelweiderhof. Possiamo far vedere la pagina della questa qui, c'è. Su Deutsche Tageszeitung, questa sì. Questo articolo è molto carino da leggere, perché lui fa durante una passeggiata nei luoghi che sono stati di Walter dà le descrizioni molto così particolareggiate della zona, della casa di Vogelweide, il capitello. Questo capitello è di una fattura incredibilmente bella, lui ce la descrive, ed è proprio nella zona di Ried, sotto il Vogelweiderhof, e porta una data impressa che è del 1276. E qui è raffigurata, mi sembra, la Maria e con la regina, che adesso non ricordo chi fosse, però comunque. E allora, come si era arrivati a che Haller pubblicasse questa sua tesi? Era una sera del 1867, se non ricordo male, e Haller sedeva nella sua sacrestia assieme ad un cooperatore, e stavano aspettando l'altro cooperatore, che era fuori per un giro per la cura delle anime. Arrivò questo cooperatore, tale Anton Spitz, e arrivò poco dopo, un po' in ritardo, trafelato, dicendo che era tutto vero quello che era stato scritto su un libro che era piaciuto tantissimo e che era uscito da poco, del professor Pfeiffer. Mi puoi dare un po' d'acqua? Sì. Era tutto vero, dice, Walter von Vogelweide non è di Vipiteno, perché allora c'era nel 1867 si pensava che potesse essere nativo di Vipiteno. Grazie. Ah, non avevo capito. È tutto vero, dice, quello che scrive il dottor Pfeiffer. Ho riscontrato che tutte le prove che sono portate portano a concludere che Walter von der Vogelweide è di queste montagne ed è un tirolese, ecco. Haller, che già studiava per conto suo, si è incuriosito da questa affermazione e non so se la sera stessa o il giorno seguente si è recato nella sua sacrestia a cercare nei Tafbuch qualche cosa che desse conferma a queste affermazioni. E con meraviglia trovò registrato all'anno 1575, se metti la freccia là, 1575, il giorno 20 di marzo è nato un bambino a Walter von der Vogelweide, il cui nome, il nome dato era Walter anche al bambino, e il padrino era un tale Walter Franz Schurer. No, è là in alto la quinta e la sesta riga, ecco. Sì, sono passate quasi 300 anni dalla morte di Walter von der Vogelweide, però il fatto che venisse battezzato un bambino con questo nome, il padre stesso si chiamava Walter, il padrino si chiamava, è chiaro che nella memoria collettiva della gente di Lyon questo cantore, questo poeta era ancora viva. Poi il nome di Walter verrà ripetuto per alcuni secoli, poi effettivamente c'è stato un periodo in cui non si parlò più di la casata, probabilmente si estinse, ma Walter insomma rimane sempre nel cuore di tutti. Questo fatto del Taufbuch ci verrà da chiedere perché solo nel 1585, i precedenti, beh, sembra che i precedenti Taufbuch non ci siano, perché l'abbiamo chiesto, noi siamo andati personalmente, non ci sono, perché deve esserci stato un incendio negli anni, per cui tutti i documenti che c'erano sono andati smarriti. E smarriti, perduti, bruciati prima del 1500. Il parroco nel 1575, il parroco di allora, ha ripreso con le registrazioni e per fortuna ci ha lasciato questo documento, quindi non è possibile, ecco, che venga, questa è una prova, ecco, questa può essere adotta come prova. Poi abbiamo fatto vedere anche, abbiamo parlato di un altro documento. L'unico documento veramente che può dirsi documento che ci attesta dell'esistenza di Walter e del suo dove si svolgeva la sua opera è il documento del 1203 del vescovo di Passau, Volkero von Erla, che viaggiava con una corte come pari a quella di un principe, che andava e ritornava nei pressi di Zise Mauri vicino Vienna, registra nei suoi diari di viaggio che ha dato una cifra abbastanza considerevole per quei tempi, immagino che sia così, a Valtero, cantore del Vogelweide, per un suo servizio, presumibilmente, oppure possiamo pensare che Walter, da tanti rigori, forse dell'incipiente inverno, non fosse vestito adeguatamente, perché questi 5 solido slongo sono poi serviti per l'acquisto di propelliccio, ecco. Questo ci dà l'idea, appunto, di Walter che seguiva la corte del vescovo come cantore, ma presumibilmente anche come ambasciatore, perché poi sappiamo che quando lui diventò cantore di Federico II svolgeva anche opere di ambasciatore per il conto dell'imperatore, quindi probabilmente anche allora, poi lui è stato anche in altre corti, a Vienna, alla Wartburg, vicino ad Eisenach, e questo doppio ruolo non è proprio documentato, però ci sono molte varie elementi che ci lasciano supporre che facesse anche così da consigliere. Ecco, questo è l'unico documento che ci attesta. Poi ci sono altri documenti che però non parlano direttamente di lui, anche se possiamo supporre che sia lui. Non so, del 1151 abbiamo un documento che è nella Autenheim, nel quale si dice che un certo Valtero de Gredena e i suoi figli Gumpert e Walter si presentavano assieme a degli cavalieri armati a Heinrich von Leyen, che era il signore di Laiano. Ecco, possiamo pensare, siccome l'epoca, che fosse questo Valtero de Gredena fosse se non il padre, forse il nonno del nostro Walter, che la cui nascita è stabilita attorno al 1170, tra il 1160 e il 1170. Questo lo si deduce dalle sue poesie, dalle sue opere. Ecco. Foto del masso. Sì, altre prove che ho potuto riscontrare, ecco, questa se vogliamo è una piccola cosa, però mi sembra molto curiosa. Lui parla in una sua poesia famosa, Unter der Linden, quello di cui parlava Gaspare, che Branduardi ha catturato questa melodia per appunto per. E, effettivamente vicino al Vogelweiderhof, a poca distanza, oltre a un grandissimo castagno secolare che sovrasta la casa, c'è un giovane Tiglio. Ma la signora che abita adesso al Vogelweiderhof, Irmgard Meyer, mi ha detto che questo giovane Tiglio è nato dal ceppo di un Tiglio secolare. Infatti si possono vedere ancora le radici, che sono rimaste delle radici poderose dalle quali è nato questo giovane Tiglio. A noi piace pensare che possa essere il Tiglio di Unter der Linden. Le radici hanno scardinato il muro e sono grosse così, perfettamente vive. Questo è il castagno, quello di Tiglio. Sì. Se posso fare una digressione, ci sono due capitelli, uno a destra e uno a sinistra del maso, come dovessero esorcizzare qualche cosa. E si è parlato prima della metà del Cinquecento, era il periodo della Controriforma, per cui Walter von der Vogelweider era stato scomunicato due volte, no? Per cui sì. Prima da Onorio III e poi da Gregorio IX. Anzi, Gregorio IX aveva comunicato l'imperatore con tutta la sua corte, quindi, perché non voleva fare la crociata, poi sì, finalmente l'ha fatta sta crociata, si è messo d'accordo col califo Malik al-Kamil e senza spargere una goccia di sangue si è preso Gerusalemme, è diventato re di Gerusalemme, e quando è tornato è stato scomunicato perché non aveva ammazzato nessun infedele, quindi si è beccato due scomuniche, per cui posso capire nel cattolicissimo Tirolo, questo lei non lo dice, non lo vuol dire, ma io faccio il giornalista, i giornalisti sono anche un po' carogne, no? per cui questi incendi, ci sono stati quegli incendi proprio molto molto mirati, perché è scomparsa traccia di quello che c'era prima. Sì, il Vogelweiderhof stesso nel 1703 subì un forte incendio che ne compromise molta parte. Restò l'affresco sulla parete di est, che c'è ancora, e questo affresco ci parla della vita di Walter, perché sono tralci di vite tra i rami uccelli, si pensano piccoli falchi. Eccolo qua. Ci raccontano di Walter, perché possiamo pensare che quella zona di Ried fino giù a Ponte Gardena un dolce declivio ricco di nobili residenze e anche la sede di un'antica caccia al falcone. Là ci sono ancora resti di Vogeltennen e c'è un pozzo incredibilmente profondo che serviva evidentemente per foraggiare i falchi dell'imperatore, e noi possiamo pensare che Walter, l'affresco ce lo dice, che nelle grazie dell'imperatore Federico II fosse anche un abile falconiere, avendo poi questa zona atta proprio alla cura e l'allevamento dei falconi. Possiamo pensare che sia così, Federico II ci diceva infatti in un suo scritto che ed era convinto che un cavaliere sarebbe stato molto bravo se fosse stato anche un abile falconiere. E sappiamo che Walter von der Vogelweide fu cantore, ma è chiamato anche Miles. Certamente era un cavaliere, portava la spada, la statua che ne abbiamo in piazza Walter ha la spada al fianco, e quindi sicuramente era un cavaliere armato. Ma sui temi, sì, allora io suggerisco perché sì. Come si è arrivati a festeggiare la nascita di Walter von der Vogelweide al Vogelweiderhof? Nel 1867, una grande festa, il 3 ottobre, alla quale parteciparono le autorità e i nobili di tutto il Tirolo e anche d'Oltralpe, si trovarono al Vogelweiderhof perché venne affissa una lapide in marmo sopra la porta d'ingresso del Vogelweiderhof, che riporta alcuni. Questo è il pozzo, dopo ne riparliamo. Mi fa vedere la lapide che è sulla porta del Vogelweiderhof. Questo è l'ingresso del Vogelweiderhof. C'è un affresco non dell'epoca ovviamente di Walter von der Vogelweide, ma sono le sante del luogo e Maria e San Floriano, mi pare, non so. Comunque su quella lapide c'è scritto zum Andenken Herr Walter von der Vogelweide, e dice così: se lo si dimenticasse mi dispiacerebbe. Questi versi così semplici ma così efficaci, trovo, sono di Hugo von Trimberg, di poco successivo a Walter von der Vogelweide, ed evidentemente un suo estimatore, era un professore di università, questo Hugo von Trimberg. Nella sua opera Renner, troviamo questi versi che sono stati riportati sulla lapide, e i versi poi continuano così: egli, Walter von der Vogelweide, non fu ricco solo di bontà ma anche di nobile ingegno. Era molto amato anche dai suoi Minnesinger contemporanei come Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Strasburg. Allora, a questa festa, ci fu una grande festa che durò parecchi giorni. Le dame di Bolzano e di Bressanone portarono al Vogelweiderhof un libro finemente intarsiato, un ciliegio che riporta una harpa in copertina, questo. E lì, nel giro di poco tempo, poche ore, era già riempito di più di 100 firme, tutti volevano lasciare il loro contributo. E da allora questo Stammbuch è ancora il Vogelweiderhof a raccogliere le impressioni degli studiosi e di chi vuole lasciare. E io stessa ho scritto qualche cosa, non mi ricordo che cosa, ma impropriamente anch'io. Sì. Comunque simpaticissima questa ricordo dello Stammbuch, e scorrendo le pagine poi ci si accorge di quanto sia amato, stato amato questo, il nostro poeta. Una copia ce n'è anche all'azienda di soggiorno dello Stammbuch fino ai nostri giorni. E c'è un professore di Hermann Braun nel 1892, il passaggio al Vogelbaderhof, ha lasciato dei versi che sono molto belli, che poi fanno, se vogliamo, concludono un po' qual è il pensiero di allora e tutto sommato anche di adesso. Che Walter von der Vogelweide sia nato in questo posto, dimostrarlo finora non c'è riuscito nessuno. Walter, il messer Walter von der Vogelweide era di casa dovunque, ovunque ci fosse uccellagione e belle donne, lo dicono le sue rime. Perciò lasciamo intatti i dubbi agli scienziati, e chi senta di lui la presenza rinnova qui il suo ricordo. Ecco, molto bella questa poesia, che mi sembra proprio che riveli il pensiero anche di adesso. Poi un'altra curiosità che non viene riportata nelle biografie è che apre un cancelletto poco distante dal Vogelbaderhof e ci si inoltra nel bosco. Lì è chiamata Rundweg Walter von der Vogelweide e c'è un giro panoramico, ecco. Comunque a pochi metri dal Vogelbaderhof ci si inoltra nel bosco e lì compare sulla destra un masso di enormi dimensioni che sembra non aver senso in quel posto perché è abbastanza pianeggiante, è un altopiano là. La figura, ecco, di questo, come vedete ha una forma sulla quale ci si potrebbe tranquillamente sedere. Ecco, a me è venuto in mente, a noi ecco, è venuto in mente che quel poeta, sì, il poeta quando scrisse Ich saß auf einem Stein, potrebbe benissimo essere questo, poi è riportato anche così seduto con le gambe accavallate, lui dice anche, seduto a gambe accavallate con il mento sulla mano, la pergamena, il rotolo della pergamena sulla mano destra, perché i Nessinger poi avevano sempre il rotolo pronti per scrivere, come veniva l'ispirazione. Ecco, questo masso mi ha veramente incuriosito, ma mi è stato, non l'ho trovato io, voglio dire, me l'ha segnalato la proprietaria del Vogelbaderhof, dicendolo così come una curiosità, perché a Lyon diciamo che c'è tutto la parla di Walter. Se volete, per lo stemma che è affisso sul municipio di Lyon, riporta lo stemma anche di Vogelbaderhof, ecco qui. Lo stemma, ecco, lo stemma è argento e nero, sono i colori dei nobili di Lyon e Tiso, e sulla sinistra è stato poi applicato con autorità il simbolo di Walter von der Vogelweide, è una gabbietta d'oro, un uccellino canoro all'interno e il capino rivolto verso il capino girato. Probabilmente io lo interpreto così, un uccello canterino che però ha cantato anche contro, perché molte delle sue dei suoi spriche sono rivolti a Roma e alle ingiustizie, che la corruzione che trovava nel papato e nella curia. Per questo queste invettive gli hanno valso la scomunica, gli incendi che ci sono stati al Vogelbaderhof, ma poi anche successivamente lui è stato comunque perseguitato fino a pochi anni, diciamo fino al 1800. La gente del posto ci racconta che chi abitava al Vogelbaderhof veniva un po', ecco, tenuto un po' così a distanza, perché comunque abitava nella casa del Teufelskerl, addirittura un eretico. Ma invece sappiamo che non è così, perché ha scritto tantissime preghiere, tante preghiere, tutte molto belle. Mi piace adesso ricordare l'antifona Ave Maria Celorum, che ancora adesso si suona e si interpreta. Fa parte di una delle sue melodie. Le sue melodie purtroppo non ce ne sono tante, sono state recuperate recentemente, abbastanza recentemente, nel 1910, la melodia del Palestinalied. E questa melodia, che poi è stata catturata anche da molti autori moderni, sì, e da complessi musicali, e fa parte anche della colonna sonora di alcuni film che trattano appunto del Medioevo, ecco, sì. Questo Palestina Lied, anche molto famoso di Walter, è stato composto al rientro dalla crociata, dunque non è stato, gli storici non ci dicono che lui ha effettivamente partecipato alla crociata con Federico II, ma tutto ci lascia supporre che sia veramente così, perché non avrebbe senso, ecco, aver scritto un lead così bello come il Palestina Lied, che si rifà un po' ai versi di Simone quando vede il bambino alla presentazione al Tempio. Lasciate adesso, Signore, lasciate che il tuo servo vada in pace. Non possiamo pensare che un poeta si sia inventato, perché poi dà la descrizione anche della Terra Santa, diciamo piuttosto che forse non dà una descrizione dettagliata della Terra Santa come un curioso vorrebbe poter leggere per dire ah sì, però vedi che c'è stato, ma dobbiamo pensare che quella crociata fu anche molto deludente. Federico II si era poi incoronato da solo re di Gerusalemme, non era proprio così che Walter avrebbe voluto, lui che era così devoto dell'imperatore, e molte altre cose, poi molte altre ingiustizie oppure catastrofi, diciamo, possiamo dire, che lui ha visto a Palestina, potevano far sì che lui al ritorno non facesse questa lite così gioiosa come ci si potesse aspettare. Comunque merita anche questa una lettura. Che poi dice ora soltanto la mia vita è degna, poiché i miei occhi peccatori hanno visto la terra che tanto onore ha dato. E quindi... E come poteva scrivere queste cose se non ci fosse stato? Però dice, ma manca il marcapollo che c'era stato in Palestina, non c'è, ma questo fa parte anche del personaggio, e una volta ancora rimane un po' così per aria. Un curioso aneddoto, se vogliamo, ma che Walter riporta nelle sue poesie un po' con qualche battuta anche forse umoristica, lo riporta sovente, si vede che la cosa l'aveva colpito tantissimo, e che comunque è una prova che lui era di qua, di Lyon. Dice il poeta in uno spruch che mi hanno tanto parlato dell'ospitalità del monastero di Tegernsee. Il monastero di Tegernsee aveva molti possedimenti e vigneti anche qui a Bolzano, nella zona di San Quirino. Tutti quei vigneti di cui era piena quella zona, adesso ci sono solo case nuove, erano vigneti del Tegernsee, del monastero di Tegernsee, i Benedettini, la cui sede principale è, la casa madre, è in Baviera. Allora, gli studiosi pensavano che lui, facendo riferimento a questa sosta presso il monastero di Tegernsee per bere un bicchiere di vino, di setarsi, forse da Baviera, nello spruch lui dice proprio ho fatto una deviazione di un miglio dalla strada. Allora mi sono presa proprio la briga di andare a controllare dal Fugelweiderhof al monastero di Tegernsee, che c'è anche a Lyon, c'è proprio un miglio. Posso pensare che allora lui fosse diretto là quando ha scritto questo spruch, e che là abbia ricevuto questo trattamento, diciamo così, poco gentile. Sembra che si sia bagnato d'acqua, che lui abbia chiesto del vino, e che gli hanno invece i monaci gli abbiano dato l'acqua, sempre per quel motivo che lui comunque era scomunicato. E così bagnato lui dice di essersi alzato dal tavolo dei monaci. Questo lo trovo una prova, se vogliamo, curiosa, ma ecco. E lui deve aver raccontato questo episodio che gli è capitato ai suoi amici come voi, Franco Neschenbach, per esempio, il quale è autore di un'opera grandiosa che è il Wildehalm. Nel Wildehalm troviamo qui, a un certo punto, è un'opera molto grande, a un certo punto troviamo questi versi: gli diedero solamente pane duro ed acqua, ciò di cui vive l'otignolo, perché il suo canto fosse più dolce di quello che sarebbe stato se avesse bevuto tutto il vino di Bolzano. Ecco, allora non è possibile fare questo riferimento al vino di Bolzano, se non avrebbe senso, ecco. Per cui questa è una prova che Walter probabilmente, quando era qui a Leyen, è venuto anche a Bolzano ed ha passeggiato per le vie dell'allora città appena fondata. Vediamo un po' che cosa. Questo edificio del Tegernsee, del monastero del Tegernsee, si trova ancora, lo possiamo far vedere a Lyon. Naturalmente tutto Umgebung è molto cambiato, i vigneti non ci sono più e adesso il monastero è diventato, ma ha conservato la struttura. Questa è da una foto dei primi anni del Novecento e è rimasta comunque così, la struttura è quella, forse il tetto l'hanno un po' abbassato ed è ora una struttura privata, e accanto c'è l'albergo Andex, altro nome di nobili di Lyon. Mi pare che questo Tegernsee, che adesso si chiama Krenmeierhof, sia una dipendenza di questo hotel Andex, di questo albergo Andex. E, allora, perché questo nome Krenmeierhof? Il nome ricorda ancora i monaci benedettini di Tegernsee, perché il patrono di Tegernsee era San Quirino, contratto diventa Quirin Kren, ecco, e quindi conserva nel nome il ricordo di Tegernsee. Poi vediamo un po' cosa possiamo dire. Vogliamo far vedere riparlare della zona delle Fugeltennen. Sì, non abbiamo detto. Ora vi mostriamo la zona delle Fugeltennen. Lì ci sono dei masi grandiosi. Questo aveva una torre, lì dove c'è la volta, sopra la volta, c'era una grande torre che poi è stata, l'edificio è stato abbassato, però conserva ancora il suo fascino. Questo è un maso del 1200. Le Fugeltennen sono lì nella antistanti l'edificio, si possono vedere. Questo edificio che si chiama Oberfinserhof è chiuso perché è una abitazione privata, però fa il Torgelen, per cui siete fortunati, si può visitare durante il Torgelen. Poi volevo far vedere, c'è un altro maso, l'Unterfinserhof, no, di quello non abbiamo la foto. Vediamo un po' questo qui. Questo è lo stemma e il portale di uno di questi edifici che sono in questa zona, diciamo così, nobile di Ried. Tutto lascia pensare, poi ce ne sono altri, tutto lascia pensare che da qui passasse veramente l'esercito imperiale, perché è tutto un susseguirsi di masi di questa importanza, di questa datazione attorno al 1200. Si chiama infatti la via degli eserciti, di lì passavano gli imperatori diretti a Roma, perché probabilmente la via bassa della Val di Giarco era considerata poco sicura, perché o per le frane o perché imboscate, non si sa. Volevo far vedere appunto la zona delle Fugeltennen, che ci dice, che ci racconta appunto di Walter von der Vogelweide e dei suoi falchi che sono dipinti sull'affresco della parete di est del Vogelweide Rosa. Ecco, questo è l'affresco, vedete tracci di vite, la zona è ricca appunto ricca di vino, e i falchi che ci parlano di Walter. Mi fai vedere le foto poi pozzo, che era, trovo il molto interessante, la fate vedere, la foto della stampa del Maso, che è una foto, questa qui, questa sì. Allora, questa è molto interessante perché è un disegno china sempre della fine del 1800, vedete il grande castagno che sovrasta la casa, mentre il Tiglio non è ancora nato, non è ancora nato, oppure se c'è, appunto, non si vede. E lì dove c'è la freccia, ci sono due figure. Quello potrebbe essere un Tiglio. E si fa riferimento alla poesia dell'Inden, chiaramente. Ecco, ci sono due figure, un uomo e una donna, naturalmente nella fantasia del pittore. Basta, abbiamo altre foto da far vedere. No, basta, grazie. Vi volevo parlare però del soggiorno di Walter alla Wartburg. E questo dà una spiegazione al sottotitolo della tesi, che è Cantore nel Rosengarten. Allora, una prima spiegazione, se vogliamo la più immediata e spontanea, potrebbe essere che da Laien e soprattutto dalla Heide, ecco, ho dimenticato che la Heide di cui parla Walter, Unter den Linden, Under Heide, esiste ancora, c'è ancora così, ed è un pianoro aperto, pieno di luce, di sole, aperto senza cespuglie, senza vegetazione, e Haller ne fa una descrizione migliore certamente nel suo resoconto. Cosa stavo dicendo? La risposta immediata sarebbe che dalla Heide si vedono le cime del Rosengarten e soprattutto la più importante, lo Schiller, e quindi Walter avrà ammirato le Rosadira, non lo sappiamo, lui non lo dice, anche perché non fa mai riferimento al suo luogo di nascita. Dice in un verso, dice che ha imparato a dire e a cantare in Austria, solo questo, ma non dice nient'altro sul suo lavoro, ecco, per cui dobbiamo fare sempre supposizioni. Ritorniamo alla Wartburg. Agli inizi del 1200 la corte di Wartburg, c'era regnante Hermann di Turingia, e con la regina Elisabetta d'Ungheria, che poi faranno santa per i suoi meriti nei riguardi dei poveri, ecco, divenne santa, e lei nella sua vita, che è raccontata da molti storici, però adesso mi viene in mente Gottfried Mencken, lo chiama Miles, e si rivolge a Walter chiamandolo Miles. Alla corte di Wartburg, dunque, Hermann di Turingia, lui stesso era cantore, aveva studiato a Parigi, dunque amava la cultura e le arti e la poesia. Riunì i 6 migliori cantori del regno. Come li scelse? Ma non lo sappiamo. Abbiamo riportato qui comunque una foto che è dal codice Manesse, che il codice Manesse è del 1300, poco dopo il 1300, a cura di questo nobile svizzero che si chiama Rudiger Manesse, che ha raccolto l'iconografia dei cantori dei Minnesänger. E Walter qui non sono sotto, c'è la descrizione della stampa, però io lo identifico con, allora, al centro c'è Hermann di Turingia, lo identifico con quello della corona, che ha una corona, perché era appunto quello più qualificato a portarla. Poi gli altri sono Wolfram von Eschenbach, Der Schreiber, sappiamo i nomi, sì, comunque, e in testa c'è la regina Elisabetta e Hermann di Turingia. Perché sei? Perché sei? Questo numero fa riferimento comunque alla rosa sei petali, e gli stessi cantori alla Wartburg, che si sfidavano in ingegno per opere di poesia, dovevano scegliere chi fosse il migliore, avevano come premio ghirlande di rose, La rosa a sei punte è un'iconografia interessante perché riguarda il simbolo della sapienza, la stella a sei punte è il simbolo della sapienza. Poi i cantori divennero 12, di cui sappiamo il nome da un autore, da un professore del 1500, che ce ne dà un elenco in un latino un po' storpiato, ce ne dà un elenco, ce l'abbiamo qui. Il Walter von der Vogelweide è al numero 5, dice che il primo era un famoso dottore ed era Hermann di Turingia, anche, oltre che era anche un mago, ecco perché l'aggancio con il Rotengarten. I cantori della Wartburg chiamavano Rotengarten il loro spazio dove avveniva questa disfida con le poesie su chi fosse migliore. E se vogliamo c'è un po' un aggancio con la leggenda di Re Laurino, anche lui era il re di un giardino magico e misterioso, un giardino delle rose. Lui viveva, Re Laurino, nei sotterranei di questo, tra le rocce, e avevano questo giardino bellissimo che era difeso dai nani. Quindi c'è un aggancio anche con questa leggenda ed ecco perché ho pensato che fosse bello poi dare questo appellativo Walter, cantore nel Rosengarten, e quindi c'è più di un motivo. Ecco, poi cosa possiamo dire della la morte di Wartburg. Di Würzburg, sì. Sappiamo che è sepolto a Würzburg. Abbiamo la foto? Sì, ecco. E questa naturalmente è un manufatto di epoca abbastanza recente, dopo il 1900, ecco. La sua tomba era un sarcofago, comunque descritta da un certo Grop ed anche Michael De Leone, che è stato un appassionato che ha raccolto le opere di Walter nel 1350. Il suo sarcofago è stato ritrovato comunque nella corte del Lusengarten, alla cattedrale di Würzburg, e là tuttora è meta di visitatori affezionati che lasciano anche poesie, le sue poesie, lasciano messaggi sulla tomba, perché comunque viene ancora ricordato come il poeta dell'amore, e quindi belle poesie. Adesso magari ne ricordo una. Alcuni versi che riguardano l'amore e la donna, dice così a proposito, in una Lied che si chiama Schönheit und Anmut: è l'amore che fa bella una donna, la bellezza non può fare altrettanto, la bellezza solamente non rende amabile nessuno. Questi suoi versi sono poi stati catturati da Audrey Hepburn durante un'intervista, li ha fatti suoi, volendo un po' spiegare, ecco, questa attrice, il perché di tanto anche lei avesse tanto fascino e tanta grazia, ecco, e la risposta nell'amore. A Würzburg, perché a Würzburg? La data della morte gli storici la pongono al 1230-1233, ecco, perché c'è un documento di un monastero in Baviera, Karlsheim, dove si dice che un cantore vagante Valtero, morì in quell'anno, nel 1233. Possiamo pensare che, siccome Karlsheim è poco lontano da Würzburg, lui lì sia morto magari per il ritorno dalla crociata e sia poi stato portato a Würzburg, dove lui aveva ottenuto un feudo da Federico II. Finalmente il suo sogno di avere un feudo era stato realizzato, penso che mi pare che l'abbia ottenuto attorno al 1220, quindi ci ha vissuto senz'altro a Würzburg. E nell'occasione, quando ha ricevuto il feudo, è stata così una felicità che ha composto anche una poesia in questa occasione, volendo far partecipi tutti della sua felicità di avere il feudo. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, ci sono delle similitudini con Dante tra le sue poesie. Adesso, se c'è qualche insegnante di lettere, non li dirà, però va bene. Lui dice, per esempio, quando una nobile dana bella e pura, con i bei vestiti e i capelli intrecciati, va e si intrattiene con la gente cortese e lieta, nel seguito scortato, guardando a volte un poco intorno a sé, e brilla come il sole fra le stelle, ci porti pur maggio i suoi prodigi. Quindi quando una donna descrive questa donna che se ne va lieta e pura in mezzo alla gente, la guardano e l'ammirano, non mi viene in mente tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia con dell'altrui saluta, ogni lingua del... No? Quindi è quello lì, no? E poi vediamo un po'. Nel trentesimo canto del Purgatorio, quando Vogelweide dice a un certo punto, ritrovando la sua terra, dove è finita, non trovo più la mia terra, il mondo è bianco, è verde, è rosso, invece adesso è diventato nero come la morte. Bianco, verde e rosso, che sono, ricordo, le virtù teologali in fondo. Come appare Beatrice a Dante? Beatrice a Dante dice, sovra candido vel cinta d'olivo, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Quindi è bianco e rosso e verde anche lì. E siamo ai prodromi del paradiso. Però è singolare che tutti e due dicono più o meno le stesse cose, il che vuol dire che questa influenza in un qualche modo c'era, no? Ecco. Volevo dire due parole sui documenti che non sono stati ritrovati, perché ovviamente gli storici, per poter inserire nella biografia il dato accertato che Walter von Gelweide è di Lyon, devono avere un documento, altrimenti noi possiamo portare tutte le prove che vogliamo, ma se non c'è un documento scritto. Allora, molti documenti sono andati smarriti o bruciati in quegli incendi che abbiamo capito essere anche stati dolosi, perché così voleva cancellare comunque la memoria di questo considerato un po' eretico, ecco. E poi sappiamo che testimoni raccontano che nel secolo scorso, attorno al 1800, la metà del 1800, ecco, strani viaggiatori si sono presentati nei due masi Ausser Vogelweider e Inner Vogelweide, chiedendo carte, se potevano comprare delle cose. E la Moidl, che è una delle Bauerine che abitava all'Ausser Vogelweiderhof, disse candidamente che a un professore che poi appunto faccio un cenno a questo professore, che è Ignaz Singerle, un grandissimo studioso di Walter von der Vogelweide, lui e i suoi figli. Appunto raccontò a Zingerle che sì, è vero, der alte Plunder gelte nicht mehr, diceva, le vecchie carabattole non interessano più nessuno, per cui gliela date e parte le ha anche bruciate, per cui noi non sappiamo che fine hanno fatto questi documenti che potevano dare gettare una luce sulla vita di Walter al Vogelweiderhof. E inoltre poi altri altri testimoni raccontano, testimoni che ovviamente sono morti, però ci sono gli eredi, come il proprietario del Krone, del Gasthaus Krone a Chiusa, il quale, intervistato appunto nei primi anni negli anni tra 1850 e 1900, diceva che ha detto così, che il suo figliolo, andando a scuola, al Vogelweiderhof, con altri, evidentemente con altri amici, hanno scoperto in un Geheimfach, in un posto segreto, che tutte le stube hanno un posto segreto, delle pergamene. E ci hanno involtati loro, l'hanno preso e ci hanno involtati il loro panino con lo speck, così dice la storia. Ci hanno inventato il loro panino con lo speck e il giorno dopo si sono presentati a scuola con questi panini. Il maestro, quando ha visto le pergamene, ha visto il maestro, però non sappiamo il nome del maestro, vorrei andare a rintracciarlo. E il maestro ha capito l'importanza di queste pergamene e se le ha fatte dare, e con la raccomandazione di portare anche quello se c'era dell'altro al Vogelweiderhof. Così fece questo Florian Schrott, questo ragazzino, portò, però poi non sappiamo cosa è successo di questi documenti. Il maestro dice di averli spediti al museo della città natale di suo padre, però ecco, lì è un mistero, perché probabilmente questi documenti o lettere che possano gettare luce sulla vita di Walter ci sono, però noi aspettiamo fiduciosi che qualche caso ce li riporti in qualche mercatino, in qualche chi lo sa, in qualche archivio, che una volta si possa andare a frugare, come è successo per il documento del viaggio di Walter von der Vogelweide al seguito del vescovo Volcker von Erla. È stato ritrovato casualmente da un professore di Udine, un germanista, nell'archivio della biblioteca di Cividale del Friuli. Ha trovato nel 1867 questo documento dove è registrato il viaggio, per cui vedete, le cose sono anche la musica del lo stesso a Palestina lì, che è stato trovato ed è firmato, voglio dire, da Walter, perché poi molte altre melodie sono state attribuite a Walter, ma non si ha la certezza. Quella del Palestina lì è proprio sua, come dicevo, l'Ave Maria Celorum, ma incuriosito sono andata a sentirmela, è molto bella. Ecco qua. Ecco. Mi pare sì. Sì, se volete qualche altra. Forse c'è qualche domanda, magari da parte di qualche curiosità. No, io volevo chiedere, per cortesia, siccome ho letto alcune biografie dello stupo al mondo, sì. Accenna parecchio, però di sfuggita questo arte. E io ho capito più poco quali sono i rapporti. Lui era proprio nelle grazie dell'imperatore, sì. E quindi pensiamo che sia stato veramente un abile falconiere, perché Federico II era comunque un po' fissato con la caccia a Giona. Sì, ha scritto un bel libro, sì, è vero, sì. E pensiamo che appunto se lo portasse un po' in giro, ma non ci sono i cronisti. Non ci dicono, i cronisti non ci dicono niente, sì. Un'ipotesi è che lui avesse anche, Walter avesse anche un nome di guerra, cosiddetto, e quindi ad esempio Freidank, questo che vuol dire libero, ovviamente vuol dire libero pensiero. Io penso e anche altri storici sono in buona compagnia, perché Wilhelm Grimm è stato il primo a buttare là questa ipotesi e ha dedicato gran parte dei suoi anni a cercare le prove che dicessero che Walter von der Vogelweide e Freidank erano la stessa persona. Dunque, se lo dice Wilhelm Grimm, dobbiamo forse crederci. È possibile che Walter usasse in guerra quindi alle crociate o alle dipendenze appunto di Federico II, un po' per sfuggire ad altre scomuniche, un po' per fare altre mansioni come quella di usare la spada, usasse questo pseudonimo Freidant. Infatti una prova è che non vengono mai nominati insieme. Allora si dice di Freidank, del quale si sa niente, voglio dire niente, ancor meno di Walter, si dice che ha scritto la Bescheidenheit, che vuol dire discernimento, buon senso, non so la traduzione in italiano, come modestia, ecco, ha scritto la Bescheidenheit. Però anche che sono sentenze, istruzioni sulla vita, messe insieme durante, sembra proprio un lavorio di più anni. Wilhelm Grimm ne ha curato più edizioni di questa Bescheidenheit, sempre facendo riferimento al fatto che potesse essere autore Walter von der Vogelweide. Noi sappiamo che anche Walter ha scritto diversi spriche dando direttive di buon comportamento e di istruzioni per l'uso della vita in pratica ai genitori, ai figli. Che poi lui sia Freidank, non possiamo accertarlo finché uno storico da qualche cronaca non ci dica questa cosa, ma ho capito che era sovente che i cantori usassero comunque un altro nome. E nel caso di Walter appunto è Freidank. Nelle sue opere poi di Walter troviamo spesso citazione: lasciate i miei pensieri liberi, dice in un verso, lasciatemi liberi i pensieri così io non sarò più nelle nebbie. Ecco, questo riferimento mi sembra veramente che possa essere collegato a Freidank. Più volte parla di pensiero libero e lui era comunque un pensatore libero che si è veramente preso la libertà di dire, primo in assoluto tra tutti i poeti fino allora, di andare contro la Chiesa e il Papa. Poi notiamo che lui comunque è profondamente religioso, non ha mai attaccato il dogma della Chiesa, ma l'uomo, ecco. Bisogna anche dire che a fine 800 c'era il montanismo, l'ultramontanismo, che è il movimento che sosteneva la primazia del papato romano rispetto alle altre chiese europee, e si dà il caso che subito dopo, negli anni della Controriforma, non fosse molto gradito un poeta che diceva che il Vaticano era la culla del demonio, no? E quindi lo stesso Haller e lo stesso Zingerle sono stati attaccati dalla Bothner Zeitung, che sì, sono si stupivano stati che due religiosi criticati, si interessassero tanto a questo poeta scomunicato. Hanno scritto veramente che è un umorismo della storia, letteralmente, un sacerdote che poi divenne principe vescovo, Haller, un sacerdote e padre Anzoletti, che era un francescano del ginnasio di Bolzano, coevo di Haller. Appunto nella stampa è apparsa proprio questo: è un umorismo della storia che due sacerdoti si siano interessati così a fondo e lungo per decenni di un poeta, di uno scrittore così ostico alla Chiesa. Ecco, nominato padre Anzoletti perché ha scritto due biografie di Walter von der Vogelweide. Era un francescano del ginnasio di Bolzano, e queste sue biografie le ha portate poi come testo di studio anche qui a Bolzano nelle sue classi, e sono veramente anche queste delle miniere di notizie, anche queste. Ho dimenticato di dirvi che un'altra prova che troviamo nelle poesie di Walter sul fatto che lui sia di Laien, anche se non ce l'ha mai detto, è la famosa elegia che lui ha composto in occasione, in tarda età, tornando appunto a Laien. lui non dice che è tornato all'Iron, però dice che è tornato nel suo paese e che ha trovato tutto cambiato. Questi versi sono molto belli e sono appunto nella elegia. E dice: ahimè, com'è cambiato tutto, non distingo più quello che mi era noto come la mia mano destra, ora è tutto cambiato. Gente che mi conosceva da bambino, dove io sono stato allevato, neanche più saluta. Quelli che erano stati compagni di giochi sono persi, e trova tutto cambiato, perfino, dice, il bosco, perfino il campo è cambiato, e dice che il bosco è stato divelto, e tutto è stato dissodato. Allora, questa, allora siamo andati a cercare, effettivamente Reed è un nome che significa roden, e che vuol dire proprio dissodare. E lì c'è stata una grande opera di rivoluzione del terreno, non si sa in quale periodo, i testi non ce lo dicono, però se si vede la conformazione del terreno di Lyon si capisce che c'è stato effettivamente un forte disboscamento, per quali motivi non si sa, probabilmente per piantare i vigneti, per i pascoli, per i vigneti. Comunque Walter appunto scrive questa elegia molto bella, molto triste, però dove descrive il paesaggio così cambiato. Ecco un'altra prova che lui sia di Lyon. Gli altri pretendenti alla paternità di Walter, pian piano appunto dopo la festa che c'è stata in occasione della fissione della lapide, si sono un po' ritirati, ma non dicono più appunto che Walter è nato lì, cito non so, l'Austria, in Austria, in Germania, in Franconia, la Svizzera, portavano elementi unicamente perché in quei posti magari c'era un bosco che si chiamava Vogelweide. Questo nome è abbastanza ricorrente tra i paesi tedeschi, che riguarda appunto la cacciagione oppure, ma nessuno, ecco, ha avuto elementi così probanti come questi che abbiamo illustrati, che ci dicono che Walter sia nato qui. Poi ci sarebbe da fare un'altra bella conferenza sulla statua, perché anche quella ha avuto le sue vicissitudini, è una statua, ecco, è stata tanto in esilio, poi finalmente adesso è nella sua piazza vicino al Duomo, sì, ha avuto le sue vicissitudini, ma anche l'elaborazione di questa statua, che è un promotore comunque, ecco, che lo ricordo adesso, è questo professore Ignaz Singerle, che ha lasciato poi tutta la sua biblioteca e i suoi studi su Walter von der Vogelweide, li ha lasciati all'università di Innsbruck, dove lui insegnava. E il figlio ha continuato, lui aveva addirittura ai tempi appunto prima del 1900, quando promotore anche lui della festa al Vogelweiderhof del 1867, lui aveva acquistato addirittura il castello che si trova a Goofy Down, che si chiama Summersberg o Summersberg. E lì aveva fondato una specie di tavola rotonda dove tutti gli studiosi e amanti di Walter portavano il loro contributo. Si chiamavano i Folgerwalderiani. Andate a Goofy Down nel castello che c'è ancora. Sì, andate a Goudon, c'è una meravigliosa torre dove rinchiudevano i detenuti, ma soprattutto le streghe. Sì. C'è una finestrella piccola così, a 10 metri d'altezza, e una porta di ferro che è l'originale. Guai parlare di streghe. A Goudon c'era il tribunale di tutto il territorio. No, però ufficialmente nessuno, io l'ho chiesto a un professore che era venuto da Innsbruck, c'era una conferenza lì, dico, ma veramente qui vogliono glissare via per non cadere forse nelle leggende, però, nelle storie truci, non però pensavo, ci sono, perché basta leggere gli atti che ci sono nel Vescovado di Trento, si dice tutto. Poi c'è la mia amica di Cesaro, che a Bolzano ha scritto un meraviglioso libro, che è veramente molto brava, no? Per non parlare della Isabella Canosa, che ha scritto una decina di libri sui tribunali delle streghe, e è inutile dire che io tengo per le streghe, è vero? Ecco, questo riferimento, voglio dire, al Rosengarten si può trovare anche in un'opera di Friedrich von der Hagen, che è un grande scrittore che ha rilegato, anche lui ha fatto delle ricerche in mani sui Minnesinger e ha pubblicato appunto molti volumi su proprio chiamati Minnesinger, e ho trovato questo componimento che mi ha dato lo spunto per fare il sottotitolo: Zwölf Alten Meister in Rosengarten. Ecco, e da lì ho tratto il sottotitolo. Grazie. E appunto in questo componimento del XV secolo c'è l'elenco dei 12 maestri cantori della Wartburg. Grazie. Ecco. Grazie.